Europa 24. Buona giornata da Anna Migliorati, si apre la nostra finestra sull'Europa anche oggi, ma restando in Italia, perché è a Firenze il cuore delle celebrazioni oggi della Festa dell'Europa. Si ricorda infatti il 9 maggio la dichiarazione Schuman del 9 maggio 1950, che di fatto rappresenta l'inizio del processo di integrazione europea. Si sono allora ritrovati insieme a Firenze i presidenti della Commissione Europea, Josep Barroso, e dell'Europarlamento Martin Schulz, oltre a rappresentanti di diversi paesi europei. Tema più dibattuto questa mattina è stato ancora una volta la crisi. Nel pomeriggio alle 15 ci sarà l'intervento di Barroso. Nel frattempo, così il presidente Schulz al microfono di Gigi Donelli. Io credo che questa sia assolutamente la priorità più alta. La disoccupazione dei giovani in Europa è assolutamente inaccettabile. Noi siamo il continente più ricco del mondo, ma in alcuni nostri stati membri il 50% dei giovani è senza lavoro. E questo è una vergogna. Dobbiamo fare di tutto per intervenire. E questo è un pensiero condiviso da un'enorme maggioranza dei membri del Parlamento europeo. La priorità principale deve essere combattere contro la disoccupazione dei giovani. Ma uno stop è arrivato da Bruxelles intanto all'Unione Bancaria Europea, lanciato un anno fa, che ha perso uno dei tre pilastri originari, il sistema comune di garanzia dei depositi. In una conferenza stampa ieri sera il commissario al mercato interno Michel Barnier ha parlato di due pilastri, dopo che buona parte degli stati membri, soprattutto la Germania, si sono apposti non solo al principio del sistema comune, ma anche alla ben più blanda proposta di armonizzare i sistemi di garanzia nazionali. E un monito dall'Italia è arrivato dal palco di Firenze questa mattina dall'ex presidente degli industriali italiani, Emma Marcegaglia. So the real problem is not a conflict between. Il vero problema, lo sentite, non è il conflitto tra il consolidamento fiscale e la crescita, perché nel lungo termine vanno nella stessa direzione. Il vero problema è il diverso impatto nel lungo e nel breve termine. Crisi, ma anche diritti nei dibattiti oggi per la Festa dell'Europa. A parlare a Firenze anche il ministro degli esteri italiano Emma Bonino. To defend the European construction, we need to rediscover its mission. Per difendere la costruzione dell'Europa dobbiamo ritrovare la sua missione originaria, ha detto, il suo cuore, l'emozione e l'appello di Emma Bonino. La crisi non è solo economica, ma riguarda anche i valori fondamentali. Dobbiamo ritrovare lo spirito dei padri fondatori. Il 2013 è l'anno europeo dei cittadini. Cosa chiedete allora voi all'Europa? Vi ricordo il nostro sondaggio sul sito www.radio24.it. Potete ancora rispondere. I risultati durante l'Altra Europa sabato mattina. Cos'è e come volete questa Europa? Gigi Donanelli lo ha chiesto intanto a Vivian Reding, responsabile di giustizia, diritti fondamentali e cittadinanza dell'esecutivo dell'Unione Europea. Presidente Reding, cos'è oggi per lei l'Europa? Per me l'Europa è uno spazio senza frontiere, con molti diritti per i cittadini, per poter vivere in questo continente come se fossimo una grande famiglia. Ma Presidente, cosa dovrebbe essere in futuro l'Europa? Dovremmo tener cara la nostra diversità culturale e dividerla, tutti insieme, senza discriminazione, senza barriere, sentirsi parte di una famiglia dell'Unione Europea. E questa Unione Europea dovrebbe pur diventare una vera unione politica, con un forte governo federale e un vero Parlamento federale. Sono Federico Taddia e oggi, in occasione della Festa dell'Europa, vi propongo un evento promosso dalla rappresentanza in Italia della Commissione Europea e dall'Ufficio di Informazione del Parlamento Europeo, in programma domani al Teatro Franco Parenti di Milano. La giornata si apre alle 11 con la Stanza delle Meraviglie, un'iniziativa dedicata agli studenti alla scoperta dei grandi statisti europei. Nel pomeriggio alle 17 una tavola rotonda incentrata sulle opportunità di studio e di lavoro all'interno all'interno dell'Unione. Tra gli ospiti, i rappresentanti di Eurodesk, ISEC, uffici Erasmus, il Basker soltanto e studenti universitari coinvolti in progetti di mobilità e scambi internazionali. Infine, la sera alle 20.30, Jack Tessaro mette in scena lo spettacolo Il cuore di Quixote. Per conoscere il programma nel dettaglio, www.teatrofrancoparenti.it. E con l'Europa ci risentiamo come sempre alle 15. Intanto un buon pomeriggio da Anna Migliorati. Europa 24, in collaborazione con Euronet Plus.